La grandezza di questo paese non è più nelle piazze, non è nelle chiese, non è Roma di marmi, fontane e potere, né Milano tradita da chi se la beve, non è Genova o Taranto, signore del mare, non è Napoli, e questo è perfino più grave. Non è più divertente tirare a campare, soprattutto non è più originale. La fortuna di questo paese non è più degli artisti, non è delle imprese, non c'è nei discorsi di chi vado a votare. Se grandezza ce n'è, non si riesce a vedere, così hai voglia a cercarla tra i mille canali, sia su quelli analogici che sui digitali. E non serve aumentare la definizione per vedere più grande un coglione. sei così diverso che sarebbe quantomeno assurdo tenerti incatenato a vita ad un unico ricordo, chiuso nello spazio marginale del mio primo sogno. Sei così diverso che me ne vergogno. Sei così diverso che mi rendo certamente conto che non ti posso neanche prendere ad esempio. Chissà come ci sei finito tu su questo mondo, tu così leggero però così profondo. Leggero, però così profondo. Tu sei così diverso e non fraintendermi, che fai paura a chi sa cogliere la lieve sfumatura, il cuore di un bambino tra due spalle che tu non vuoi abbracciare. Fargli male. Tu sei così diverso, eppure dicono che ti somiglio, che si capisce subito che sono il figlio. Parole che non spiegano però quello che sento dentro. Cosa di leggero, però così profondo. Qualcosa di leggero, però così.